Italia in controluce. A 16 anni tenta il suicidio gettandosi dalla finestra di una scuola romana. L'avete letta questa notizia, ve l'abbiamo raccontata anche ieri nei nostri GR. I compagni lo deridevano, il padre non accettava la sua omosessualità e lo spingeva ad avere rapporti con le donne, ma lui davvero non ci riusciva. Su Facebook poi il suo messaggio, che avrebbe potuto essere l'ultimo, ma per fortuna non sarà così. Mi dispiace, non ce l'ho fatta, sono circondato da gente senza cuore. E allora quello che ci chiediamo oggi qui ad Italia in Controluce è perché per le famiglie è ancora così difficile accettare l'omosessualità dei figli. La scuola ha fatto tutto quello che poteva per intercettare il disagio di questo ragazzo, che poi è un disagio anche dell'intera comunità scolastica, aiutando lui e la sua classe ad affrontare il tema? Questo lo chiediamo anche a voi che siete a casa, dateci le vostre opinioni al 349-238-6666, quindi aspettiamo i vostri sms. Fra poco ci collegheremo con la nostra Alessandra Schepisi, che si trova proprio di fronte alla scuola Marcantonio Colonna di Roma. Prima invece salutiamo il nostro ospite Fabrizio Marrazzo della Gay Help Line. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Fabrizio Marrazzo ieri ha incontrato il ragazzo, ha incontrato i suoi genitori. Allora cominciamo proprio da qui, come sta questo sedicenne? Diciamo il ragazzo di base sta abbastanza bene, insomma, ha ovviamente il problema alle caviglie dove ha avuto la rottura, però diciamo fortunatamente non sembra che abbia avuto danni cerebrali o altro. Poteva andare peggio. Per la tipologia di caduta che ha preso è stato abbastanza, diciamo, miracolato, e ovviamente diciamo l'umore non è sicuramente dei migliori, considerando anche il fatto che è sotto sedativi, comunque ha forti dolori per le rotture ossee che ha avuto. Fabrizio Marrazzo, tu hai incontrato anche i suoi genitori? Sì, ieri abbiamo incontrato la madre, la quale si è resa disponibile a collaborare con noi e ci ha chiesto anche un supporto per il figlio, perché ovviamente è una situazione che l'ha lasciata disarmata, lei non se l'aspettava. Adesso cercare di capire non le motivazioni. Non si aspettava che cosa? Nel senso che sappiamo che in questa famiglia il problema nasceva poi lì, chiaramente si è diffuso anche a scuola, insomma i suoi compagni con il loro atteggiamento sicuramente hanno contribuito a questa situazione, però il problema nasce già dalla famiglia, perché soprattutto il padre non... Ma diciamo il figlio, lui viveva con la madre che si è separata dal padre che vive col compagno, quindi per quello che riguarda il rapporto col padre al momento non ne abbiamo particolare traccia. Quello che però possiamo diciamo estrapolare, considerando anche la nostra esperienza che abbiamo sul territorio, noi proprio la settimana scorsa abbiamo lanciato una ricerca che è stata frutto di un lavoro di un anno che abbiamo fatto con 20 scuole, dove sono risultate una serie di elementi che noi abbiamo evidenziato, tra cui che il 50% degli studenti gay hanno subito nella propria carriera scolastica almeno degli episodi di discriminazione in famiglia o a scuola, quindi diciamo quasi la totalità degli studenti gay ha dichiarato di subire discriminazione. Inoltre hanno dichiarato l'80% degli studenti che scuola non è un luogo gay friendly, cioè che la scuola non viene visto come un luogo accogliente per persone lesbiche o gay. E al secondo posto dopo la scuola c'è la famiglia. Quindi quello che dobbiamo considerare è che uno studente, una volta che si dichiara omosessuale, che comunque incomincia a capire di essere differente o che molto spesso viene etichettato in quanto omosessuale, ma semmai il ragazzo ancora non ne ha preso coscienza o può anche essere che non lo sia, si trova, a differenza delle persone discriminate per altre tipologie, ad esempio razza o religione differenti, anche molto spesso contro la famiglia. Quindi si trova da un lato isolato a scuola e dall'altro trova una famiglia con cui ha difficoltà a dire che subisce. Quindi davvero una situazione di grande solitudine. Scuola dunque in qualche modo sotto accusa, insomma, perché non ha saputo gestire questa, ma come ci racconta Fabrizio Marrazzo sicuramente non sa gestire anche molte altre situazioni, perché nella scuola si discrimina. Allora noi ci trasferiamo con la nostra Alessandra Schepisi, chiedo a Fabrizio Marrazzo naturalmente di restare con noi, di fronte alla scuola Marcantonio Colonna di Roma, la scuola del ragazzino di cui stiamo parlando. Alessandra, che cosa dicono i compagni? Allora, sì, oggi innanzitutto diciamo che sembra una giornata in apparenza tranquilla, una giornata come le altre più che altro, nel senso che le lezioni sono proseguite normalmente tra i ragazzi, però è davvero poca la voglia di parlare, di commentare quanto accaduto ieri, anzi c'è da registrare un certo fastidio nei confronti della stampa e personalmente devo dire che sono stata anche oggetto di un piccolo coro di insulti, però qualcuno adesso ha parlato, un paio di ragazzi hanno detto era, dice, diciamo, era un ragazzo tranquillissimo, un ragazzo timido, aveva pochi amici, andava anche da quello che sappiamo discretamente bene a scuola, ma quasi nessuno sapeva fosse gay, non ci risulta nemmeno che venisse preso in giro, e ci hanno detto anzi l'anno scorso il nostro rappresentante di istituto era un ragazzo omosessuale ed era un ragazzo pieno di amici. Questi ragazzi hanno detto sostanzialmente era il gesto, dipendeva dai problemi che questo ragazzo aveva a casa. Oggi sappiamo poi che una psicologa è andata a parlare con i ragazzi, solo però con i ragazzi della classe alla quale appartiene il sedicenne, che alcuni ragazzi, forse i suoi amici più stretti, sono andati a trovarlo al San Camillo dove si trova appunto. Tutto tace invece da parte della classe insegnante del preside? Nessun commento da parte degli insegnanti, che assolutamente non hanno voluto parlare, hanno detto non siamo autorizzati a parlare, la preside non è in istituto, ci hanno detto che al provveditorato nelle prossime ore dovrebbe tornare qui a scuola. Speriamo insomma che, vabbè, che non vogliano parlare con noi giornalisti, ci può anche stare, anche se ovviamente insomma noi non è che siamo andati lì per cercare chissà quale notizia o sentirci svelare chissà che cosa, volevamo un po' capire se i compagni di scuola sono coscienti di quello che è successo e stiano facendo un percorso di riflessione su questo, un percorso di riflessione che forse sarebbe bene che facessero anche gli insegnanti e non solo quelli della scuola Marcantonio Colonna di Roma. Fabrizio Marrazzo, le posso raccontare un episodio di vita vissuta? Sì. Perché secondo me è molto emblematico. Viene mostrato in una terza media milanese il film Philadelphia, un film importante, un film molto bello, in cui si racconta di questa coppia omosessuale, uno dei due contrae l'AIDS, i ragazzi avevano fatto una lezione sull'AIDS, quindi sembrava una cosa intelligente far loro vedere un film. Quando c'è stata la scena, peraltro se ricordo bene l'unica, in cui i due protagonisti, Antonio Banderas e Tom Hanks, si baciano, l'insegnante ha mandato avanti velocemente, ha di fatto censurato la scena, giustificandosi, come se questa potesse essere una giustificazione in qualche modo comprensibile, che questa scena avrebbe potuto dare fastidio a qualcuno. Quando mi è stata riportata questa notizia, io l'ho trovata abbastanza sciocco, perché anzi poteva essere un motivo per parlare di determinati argomenti, non solo di AIDS, ma proprio anche di omosessualità. Invece sottolineare il gesto che questo avrebbe potuto dare fastidio a qualcuno è stata una pessima idea da parte dell'insegnante, come se fosse giustificato questo qualcuno che si sarebbe potuto... Purtroppo è abbastanza comune, diciamo che gli insegnanti, i presidi nella maggior parte delle scuole non vogliono fare iniziative contro l'omofobia perché hanno paura che parlare di questo tema possa generare all'interno della scuola una serie di azioni. Ad esempio noi in una scuola che ha subito, alcuni studenti hanno subito forti episodi di bullismo, che era il Vivona, abbiamo fatto un'iniziativa che quella, quest'anno la potete vedere su Facebook, si chiama Laboratorio Rainbow, dove gli studenti producono dei video dove raccontano le proprie storie e poi producono un programma che secondo loro serve per combattere l'omofobia. Dei video tra l'altro molto belli, se i nostri ascoltatori vogliono andare anche sulla nostra pagina Facebook, scusate, Scuola in Controluce, li trovate, me li sono guardati stamattina, sono davvero molto belli questi lavori. Fabrizio, in questa scuola praticamente si sono comparse il giorno prima dell'approvazione del progetto delle scritte via i froci dalla scuola, e la preside ha deciso quest'anno di non fare il progetto perché, visto che comparivano le scritte, poteva esserci a scuola un clima ostile, quindi sentiamo, è meglio non parlarne. Marrazzo, sentiamo insieme le parole del ministro dell'integrazione Cécile Kyenge su quanto successo, al microfono di Valentina Furlanetto. La ministra delle pari opportunità e la ministra Josefa Idem, con cui abbiamo un ottimo rapporto e quindi sicuramente sapremo lavorare molto sul sulla prevenzione e sulla parte che mi compete, che è quella dell'integrazione, ma soprattutto quella del conoscere gli altri, parlare molto anche del diverse sensibilità, delle diverse culture. Credo che bisognerebbe comunque sostenere anche il lavoro della ministra all'istruzione, e questa ci darebbe un'opportunità di poter dare delle soluzioni più centrate sui giovani, più adeguati, perché si tratta di un lavoro incrociato tra diversi ministeri, individuare anche quelle che possono essere le buone pratiche attraverso il confronto e cercare di diffonderle il più possibile, insomma, sul territorio nazionale. Quindi questo è un lavoro che dovrebbe vedere protagonisti diversi ministeri. E speriamo che così sarà. Ringrazio Fabrizio Marrazzo della Gay Helpline, ringrazio la nostra Alessandra Schepisi che si è collegata dalla scuola Marcantonio Colonna di Roma. Non ringrazio gli ascoltatori perché sono brutti gli sms che sono arrivati, non li leggo e non ne sono particolarmente fiera, e parlo a nome naturalmente di Radio 24. Un saluto da Maria Piera Ceci in regia, grazie a Gianmarco Ferronato.